Esatto. Buonasera, buonasera a tutti, sono Maria Migrotto, Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, che insieme a Genio Donna ha voluto questo incontro su un tema veramente interessante per noi donne e soprattutto credo che poi avremo delle lucidazioni più importanti dall'onorevole e interverrò dopo magari su quello che si dice. Grazie e benvenuti a tutti. Grazie, telegrafica. Allora apro io il... Oh sì, perdono, è vero. Come si fa? Qui si spinge. Pronto? Sì. Apro io i lavori in modo molto semplice. Noi abbiamo voluto con ostinazione questo incontro perché Genio Donna ha ritenuto questa legge molto molto importante dal punto di vista pratico. Una legge che può cambiare nei fatti molte cose. Può cambiare una situazione di fatto e può cambiare anche la mentalità. Perché ci sono quattro motivi che noi abbiamo ritenuto importanti di questa legge. Primo, perché questa legge affronta sperimentalmente il tema del cosiddetto tetto di cristallo, quel tetto che non si vede, che è invisibile, ma che ferma l'ascesa delle donne, e questa legge scardina questo impatto, questo tetto. È previsto un periodo di 3 anni di sperimentazione. Secondo, un altro motivo, perché questa legge induce una prospettiva di sviluppo e di crescita puntando sull'introduzione di una nuova sensibilità nel governo dell'economia, la sensibilità delle donne, che individui nuove proposte di lavoro e di consumi sociali. Terzo, perché pone con chiarezza la necessità che all'equilibrio sociale dia il proprio indispensabile apporto l'intelligenza delle donne accanto a quella degli uomini. Non è più possibile concepire le scelte economiche e politiche come frutto di una sola intelligenza. Si continuerebbe ad avere una società zoppicante e sbilanciata com'è quella attuale. Quarto, la legge nasce dalla convergenza e dalla capacità di dialogo delle donne nel Parlamento italiano, al di là degli schieramenti, ed è sfociata in un disegno di legge unificato, in un periodo caratterizzato invece da scontri e aggressività all'ultimo sangue. Il disegno di legge è stato presentato il 7 maggio del 2009 dall'onorevole Lella Golfo del PDL e un altro disegno di legge è stato presentato dall'onorevole Alessia Mosca il 18 novembre 2009 del PD. Il risultato è che questi due progetti alla fine si sono unificati ed è venuta fuori una norma, una normativa, diciamo, che viene chiamata bipartisan, a me non piace molto, però una normativa che mette insieme posizioni ideologiche e posizioni politiche diverse. Per tutti questi motivi il nostro periodico, nato con il progetto delle pari opportunità, si è subito speso per questa legge e vi ha dedicato spazio, innanzitutto anche intervistando l'onorevole Della Volpe. Pari opportunità per Genio Donna significa coinvolgere entrambe le intelligenze, femminili e maschili, che sono diverse, certamente, e non devono diventare uguali. E per questo però sono entrambe indispensabili. Quella femminile ha una visione circolare, punta sul coinvolgimento, sulla collaborazione, sulla comunità, a cominciare da quella familiare. Quella maschile è più ordinatoria, più strutturata, sensibili a schemi gerarchici e forse è per questo che, stando ad alcune rilevazioni e analisi economiche, soprattutto fatte all'estero, le aziende condotte da donne sembrerebbero risultare più flessibili e in grado di resistere alla crisi. Su questi temi si sta misurando anche il movimento femminile che si raggruppa sotto la sigla di Se non ora, quando? L'impegno è di costruire un progetto di riforme che diventi l'obiettivo delle donne e sia in grado di mobilitare tutto il Paese. innanzitutto il problema del lavoro, da cui le donne sono sostanzialmente tenute ai margini con attività meno retribuite e spesso di precariato. Ricordiamo che fra il 31% dei disoccupati giovani, oltre la metà sono donne, che vi sono poi circa ancora 2 milioni di persone, in maggioranza donne, che non compaiono più nelle statistiche dell'Istat perché hanno smesso di cercare lavoro. Per cambiare la situazione occorrono leggi concrete, come questa legge 120, che cambino la condizione di vita prima di tutto e poi anche la concezione del vivere, la cultura stessa. Per questo la legge 120 ha suscitato tanto interesse e viene vista come un modello che ha superato di un balzo la diatriba ideologica sulle quote rosa sì o no. Si tratta di rompere una situazione di blocco che nessun mutamento culturale è in grado da solo di sconfiggere, come ha rilevato l'Unione Europea per la situazione italiana. Proviamo a chiederci, facciamoci una domanda semplicissima: se il voto non fosse stato allargato alle donne nel 47, dove sarebbero oggi le donne? Ricordiamoci che le donne in Svizzera hanno dovuto lottare fino al 1971 per arrivare al diritto di voto. La legge numero 120 prevede due tappe, il 20% in un primo momento, poi il 30%, per cui in ogni società vengono nominate le minoranze di genere. Se ciò non accade, la società viene diffidata ad adempiere entro 4 mesi, in caso di ulteriore inadempienza scatta la sanzione fino a 1 milione e scatta un nuovo termine, che a sua volta, se non viene rispettato, porta alla decadenza dell'organismo eletto. Due parole per dire qual è la situazione attuale negli organismi dirigenti delle SPA. Un'indagine della Consob ci dice qual è la situazione fino rilevata al 2011. I dati però si riferiscono al 2009-2010. Primo, è solo il 6% la presenza delle donne nei consigli di amministrazione societari. Cioè, su 2.837 amministratori, le donne sono 194. Nelle SPA più importanti, su 380 posti disponibili, 8 sono le donne. Fra gli amministratori delegati, 321 sono gli uomini, 11 le donne. Fra i presidenti, gli uomini sono 270, le donne 4. Fra le società controllate da pubbliche amministrazioni, sono molte di più, sono 2076. Gli amministratori sono 13.500. Le donne sono il 4%. I manager donne sono soprattutto nelle piccole società, nel settore dei consumi, della sanità, dell'abbigliamento. Per il 47,3% fanno parte della famiglia proprietaria. Nel 9,3% dei casi sono acquisite nella famiglia proprietaria. Solo una piccola minoranza sono manager indipendenti e sono prevalentemente nelle grandi imprese o nelle grandi imprese con proprietà internazionale nei settori soprattutto della comunicazione. Le donne amministratrici comunque sono state in continua crescita, ma una crescita molto molto lenta. Erano il 4,5 nel 2004 con 91 aziende, il 4,7 nel 2006 con 103 aziende, il 5,4 nel 2008 con 120 aziende. Secondo la Banca d'Italia, che aveva fatto un suo studio, si dovrebbe aspettare circa una cinquantina d'anni per arrivare al 30% di presenza femminile. Ora è tutto risolto con la legge 120, il cammino può darsi che sia difficile, però è una legge. Molte perplessità o attese o timori si sentono anche negli ambienti economici e finanziari e qualcuno dice che chi lo sa se riuscirà a funzionare davvero. Si tratterà di vedere come funzionerà innanzitutto la Consob a cui è demandata la sorveglianza. E il primo dato lo registriamo ed è un dato positivo. La Consob ha adottato l'8 febbraio di quest'anno la prima delibera, la numero 18098, di attuazione della legge. Comincia così il ruolo della CONSOB di sorveglianza affinché allo scadere degli organismi dirigenti i nuovi siano in linea con questa legge. Forse occorrerà però che la gente faccia sentire il proprio appoggio, la propria spinta, come accade sempre in questi casi, tenendo presente che il passaggio di consegna coinvolgerà parecchie persone, dalle 3 alle 4.000. L'onorevole Golfo ci dirà come stanno davvero le cose, rispondendo alle domande della nostra giornalista Katia Trinca Colone della direzione di Geliodonna. Prima però di passare a questa fase, proiettiamo un filmato sull'onorevole Belisario e la Fondazione Belisario. Prego. Marisa Belisario. Benvenuti a Samarcanda e benvenuta a Samarcanda Marisa Belisario. Questa signora è a capo di un complesso industriale che onora il genio italiano del mondo e molto di questo onore si deve proprio al fatto che a capo di questo complesso c'è questa signora che si chiama Marisa Belisario. Marisa Belisario, piemontese, 45 anni, non dichiarati ma presunti, donna e top manager, come dice il titolo della sua recente autobiografia. Dicono che oggi è la donna manager numero uno d'Italia. È il 25 agosto del 1981 quando Marisa Belisario viene nominata amministratore delegato della Italtel, il colosso delle telecomunicazioni, un gruppo di 30 aziende elettromeccaniche con circa 30.000 dipendenti, all'epoca in grave crisi manageriale, finanziaria e tecnica, con fabbriche obsolete e un passivo di oltre 200 miliardi di lire. In breve tempo, la signora di ferro con la faccia d'angelo, proveniente dalla Unidenti dove si era guadagnata la qualifica di manager più duro d'Italia, cambia 180 dirigenti su 300 e, puntando sull'efficienza e sulla meritocrazia, avvia progetti altamente innovativi. Certamente io sono molto determinata e quindi se devo prendere delle decisioni le prendo naturalmente tenendo conto di quello che possono essere, che può essere l'impatto sulle persone. Io cerco sempre di stabilire un rapporto personale con la gente, con i miei collaboratori, non sono capace di un rapporto freddo, ma nello stesso tempo credo che bisogna in qualche caso essere spietati, perché se non lo si è si fa poi il male di tutti, in particolare l'Italtel porta le conseguenze di decisioni non prese in tempo. Era di nuovo una scommessa, ed era una scommessa questa volta sia tecnologica e sia di gestione. Vince la sfida e nel giro di 3 anni porta il fatturato a 1.300 miliardi di lire e incassa un attivo rilevante. Marisa Belisario è la prima donna a salire così in alto in questo ambiente. È bella, elegante, ha successo e la sua storia professionale in Italia e all'estero si è svolta tutta nell'elettronica e nelle telecomunicazioni, settori all'epoca preclusi alle donne. Lei è una mosca bianca. Nella sua autobiografia, Donna Top Manager, ha scritto che avere successo per una donna è più difficile, però è anche molto più divertente. Ancora adesso, da quando qualcuno chiama dal telefono, insiste per parlare con il mio capo dicendo passami il tutorial bizzarro, poi io devo spiegare che sono io. E non la segretaria. E non la segretaria. Oppure quando, non so, chiamando il centralino poco della cartella, una volta un centralinista mi ha risposto dicendo ciao bella. Dopodiché appunto quando ho detto la mia segretaria che è qui. Marisa Belisario è stata e rimane un simbolo per tutte le donne. Una figura femminile fortemente carismatica per la sua fermezza, sensibilità e per la sua incredibile forza d'animo. Rimane ancora un modello per tutte noi. Sono lontani gli anni in cui Marisa Belisario era l'unica donna a sedere nell'assemblea di Confindustria. In quegli anni le donne imprenditrici erano appena il 2%. La realtà oggi è ben diversa, le imprenditrici sono il 24% e siedono in Confindustria due autorevoli donne imprenditrici. Fin da bambina, Marisa è intraprendente e determinata. Poco dopo la laurea in economia e commercio, va a Milano, alla Olivetti, a occuparsi di computer. Per lei quelle macchine ancora misteriose sono oggetti modernissimi, affascinanti e proiettati nel futuro. Tornerà nel suo Piemonte solo all'inizio degli anni 70. Passa per la hardware. Nel 72 torna alla Olivetti, che ormai viaggia verso l'elettronica in modo dirompente. Per qualche anno vive tra Ivrea e Torino e nel gennaio del 1979 va a New York con la qualifica di presidente. Il suo compito è risanare i pessimi risultati di bilancio della consociata estera, la Olivetti Corporation of America. La stampa d'oltreoceano la chiama The Legs per le sue belle gambe. E non è facile imporre da donna la propria autorevolezza. Certamente diventare il capo di una grandissima azienda è una cosa che ha lungato molto la mia vanità. Quando ero a New York, presidente dell'Olivetti, ero nello stesso palazzo che una volta era stato della Pepsi-Cola e nello stesso ufficio che era stato di John Cofford. Non avrei mai pensato e sognato della mia infanzia. Ce la fa ancora una volta e in un paio d'anni la situazione della Olivetti Corporation of America torna buona. Lei ha lavorato solo, senza mai trascurare né la sua eleganza né la sua vita privata. A New York la va spesso a trovare il marito, Lionello Cantoni, sposato nel 1969. Lei è piemontese, è laureata in economia e commercio, vive tra Milano, Torino e Roma. Come fa? Sto un po' da una parte e un po' dall'altra. Cioè, ha dei giorni della settimana ben precisi, anche quelli con lo schedule oppure... L'unica cosa che quando posso non manco è di essere nel weekend a casa, perché che è a Torino, certo. Sono a Torino torinese, e dove peraltro ho 4 gatti e 3 cani. Ma la ricetta del suo successo, con 3 aggettivi, qual è? 3, 2, insomma. Testardaggine, professionalità e ottimismo. Quando la signora di ferro torna in Italia, non lega con De Benedetti e passa all'Italtel. È il 1980 e la sua ascesa si fa irresistibile. Io sono arrivata all'Italtel alla fine del 1980. Inizialmente io non sono arrivata come responsabile dell'azienda, ma come condirettore generale, e poi a metà dell'81 sono stata nominata amministratore delegato. È una stagione d'oro, ottiene ottimi risultati e i giornali italiani e stranieri le dedicano grandi spazi. C'è una rivista in Italia che si occupa di manager, una rivista che si chiama Classica, però qua non facciamo tanto pubblicità, però volevo far vedere che ecco, la signora Belisario è in copertina, in quanto questa rivista ha promosso un referendum fra i manager e la signora Belisario ha vinto, è prima in classifica, ecco, le faccio la classifica delle prime 10 posizioni per la graduatoria del manager dell'anno, vede la signora Belisario al primo posto con 3.790 punti, seguita, ma a distanza, da Silvio Berlusconi. Lei è l'eccezione che conferma la regola. Come va questa parità? Ci siamo o non ci siamo? Questo libro dimostra che non ci siamo ancora. Ma non ci siamo ancora. Non ci siamo ancora, anche se naturalmente ci sono dei grossi miglioramenti rispetto a qualche anno fa. Oggi le donne rappresentano il 32% della forza lavoro in Italia. Si impegna nella politica, entra nella commissione pari opportunità della presidenza del Consiglio, conosce Craxi e va a far parte dell'Assemblea Nazionale del PSI. È richiesta di salotti che contano, intessi amicizie. Marisa Belisario si sveglia in una fosa giornata, il 4 agosto 1988. Aveva tenuto sempre segreta la sua malattia. Era rimasta al suo posto di lavoro fino a 15 giorni fa, nonostante la consapevolezza e l'affanno che le derivavano da un crudele tumore alle ossa, e si è spenta serenamente, assistita dal marito, ieri pomeriggio nella sua casa di Torino. Ci tengo a dire, la persona più onesta, più retta. L'economia italiana, dice De Mita, perde una protagonista di grande valore e di acuta intelligenza imprenditoriale. Si era arrivato anche un messaggio di Craxi, Marisa Belisario, dice il segretario socialista, era l'esempio dell'intelligenza, della tenacia, della volontà femminile, era un dirigente prezioso dell'industria pubblica, era una compagna di cui il Partito Socialista andava orgoglioso. Uomini politici, manager, esponenti del mondo accademico e finanziario hanno dato oggi l'ultimo saluto a Marisa Belisario, amministratore delegato di Italtel, troncata a 53 anni da un tumore. Sono saliti nella villa sulla collina torinese per assistere al funerale civile di una donna che è stata tra i più prestigiosi manager d'Italia. Erano presenti con il ministro del tesoro Amato e una folta delegazione del Partito Socialista anche numerosi dirigenti di industrie pubbliche e private e il presidente del Libro. Noi, le donne noi, il senso frange. Vent'anni fa siamo partiti in poche, ma con un obiettivo preciso, valorizzare i talenti femminili a tutti i livelli. Abbiamo promosso donne eccellenti che guidano aziende che sono la vera ricchezza del nostro paese. Guardando indietro mi sento di affermare che abbiamo fatto tanto e bene. Guardando avanti abbiamo ancora tanta strada da fare, tanti obiettivi da perseguire, soprattutto in tema di pari opportunità. Il cammino è lento, molto più lento delle nostre attese, ma un traguardo decisivo per la crescita del nostro paese, che vogliamo e dobbiamo raggiungere sull'esempio di Marisa Belisario. Pioniera di modernità, nel suo libro aveva voluto raccontare la sua vita. Non è una storia personale, è la storia di una donna che fa il mestiere di manager. Da questo punto di vista qui è certamente la storia di una donna. Il decalogo finale è la sua ricetta, il suo modello di manager ideale. La carriera non è l'obiettivo primario. Non pensare di fare carriera soltanto grazie a padrini, spinte e raccomandazioni. Continueremo sulla nostra strada a promuovere i talenti e a distribuire mele d'oro, le medaglie delle Olimpiadi della Civiltà. per il futuro del nostro paese sono molte le sfide che ci attendono. Ne abbiamo discusso a Milano e sono racchiuse nel titolo della 20ª edizione del premio. Le donne progettano il futuro, innovazione, creatività e meritocrazia. Desidero ringraziare tutti quelli che hanno creduto in me, in noi, perché dopo 20 anni regaliamo al Paese un meraviglioso affresco della leadership e del valore femminile. Non posso che esserne fiera e molto, molto orgogliosa. Bene, direi che possiamo cominciare, anche se è difficile, con il dialogo con Katia. Prima forse volevamo... Sentite, no, prima volevamo far dire solo due parole a Marcello Iantorno, qui in rappresentanza dell'Associazione Giustizia e Democrazia, e a Giulia Pustella che ci darà un breve ragguaglio sulla situazione giuridica. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Intanto io ringrazio per l'invito. Ci sono anche come avvocati, qui ci sono anche i presidenti degli avvocati. È stata un'idea, secondo me, assolutamente positiva quella di creare questi momenti di incontro anche tra categorie professionali diverse, commercialisti, avvocati, che peraltro sono anche un'occasione per arricchire la propria formazione permanente che vengono attribuita anche dai crediti. La mia presenza anche da questo punto di vista è giustificata da questa motivazione. Io ho avuto occasione, ringrazio l'onorevole Goffo per la legge, l'ho studiata, l'ho letta, mi sono informata, la trovo, peraltro devo dire dal punto di vista tecnico assolutamente essenziale, scritta bene, è raro, perché noi siamo abituati peraltro a testi normativi, lunghissimi, commi, articoli, infiniti, no? Peraltro chiara, precisa, naturalmente non di immediata attuazione, perché come sappiamo sono anche qui dei rinvii ai decreti e regolamenti attuativi. Si diceva prima che un regolamento è stato approvato 5 mesi fa, che è una prima domanda che introduco, poi faccio alcune considerazioni un po' extra menia, extra campo, strettamente di carattere manageriale, per dare alcuni dati molto interessanti, significativi, attenendo più all'aspetto istituzionale della questione del libro di genere, ma veramente 2 minuti, non ricordo molto. Quindi, no, la prima cosa, la domanda che io le faccio, qui c'è l'articolo 3, per esempio, la possibilità, è previsto che anche le società a controllo pubblico è previsto appunto l'obbligo di... io vedo qui c'è un rinvio al regolamento governativo, la legge 400, io come consigliere comunale, peraltro mi viene la curiosità di, lo chiedo al legislatore, cioè alla prima firmataria della legge, se anche negli enti locali occorre attendere il regolamento governativo o meno, quindi, e qui mi fermo. Alcune considerazioni invece che riguardano gli aspetti, l'equilibrio naturalmente di genere non può riguardare unicamente le aziende, le imprese, le società, perché effettivamente, come diceva anche il filmato, c'è molto da fare. Alcuni dati, veramente vado a chiudere, alcuni dati che riguardano per esempio le categorie professionali. Per esempio, per quanto riguarda la magistratura, per esempio, com'è la situazione della presenza femminile all'interno della magistratura? Intanto viene da una storia tristissima, che peraltro ho ripercorso in questi giorni proprio in occasione di questo convegno, dove ho scoperto anche, analizzando alcuni interventi all'Assemblea Costituente, puente, veramente sono rimasto inorridito, non so se lei la potete vedere, come si giustificava la discriminazione di genere sulla base di considerazioni nell'assemblea costituente assolutamente che denotavano la arretratezza culturale di questo paese veramente spaventosa. Vi leggo soltanto una, cioè, voi sapete che l'articolo 51 della Costituzione è stato modificato nel 2003, è stato aggiunto un rigo dove praticamente si obbliga alla parità di genere, mentre la prima parte risale al 48 e rinviava alla legge ordinaria la possibilità di disciplinare l'accesso nel campo professionale da parte delle donne. C'è stato questo ritardo. In magistratura si è data la possibilità alla donna di entrare in magistratura nel 1963. Il primo concorso è stato nel 1965 e attualmente, la faccio breve, il 40% in effetti è una crescita interessante, il 40% è di composizione femminile, ma a livelli diversi, cioè questo è un grosso problema che verrà ripreso sicuramente nelle domande, invece la presenza femminile è assolutamente, direi quasi irrilevante, il 10% sono presidente di tribunale, l'8% procuratore della Repubblica, a livello di c'è soltanto un magistrato donna che è presidente di corte d'appello e solo uno che presiede una sezione della corte di Cassazione, quindi come donna. Andiamo ancora e vado velocemente perché per esempio in che modo, com'è la situazione all'interno della categoria degli avvocati? Scoprire, ho scoperto che per esempio nel Consiglio Nazionale Forense sono membro del Consiglio Nazionale degli Avvocati, vi sono solo due donne, quindi la presenza dell'8%. L'8% che è un dato statistico riferito prima, che è esattamente la presenza femminile all'interno dei board, diciamo, nelle imprese. Quindi allora c'è tutto un percorso assolutamente da compiere, perché io sono fortemente convinto naturalmente che le leggi sono assolutamente necessarie, ma ancora quanto, diciamo, sono insufficienti per questa rivoluzione anche culturale, se vogliamo. Un altro dato ancora, nelle istituzioni, il Parlamento italiano nel 2005, allora quando si è discusso anche in modo quasi trasversale un progetto di legge, oltre a consentire l'equilibrio di genere all'interno delle istituzioni, nelle liste, nelle cariche, che purtroppo non passò, dovrebbe avere lei probabilmente il Regione Parlamento. Alla legislatura, quindi lei non ha responsabilità della bocciatura, fu bocciata nel 2005 quella legge. All'interno degli enti locali, voi sapete, i sindaci sono soltanto 80 su circa 800, quindi siamo in presenza di circa 1% se non mi sbaglio, le giunte assenti, non ci sono donne nelle giunte degli enti locali per il 35%, sostanzialmente quindi abbiamo una situazione di assoluta arretratezza da questo punto di vista. Qui mi fermo, vi ringrazio, avrei tante cose a dire, ruberei il mestiere a qualche altro. Però il discorso qual è allora? Cosa io dico che effettivamente probabilmente bisognerebbe introdurre sicuramente delle leggi, ma non è sufficiente prevedere però l'attribuzione delle quote, perché in effetti qui la trasformazione deve essere radicale e diffusa, perché effettivamente si potrà arrivare a un equilibrio di genere allora quando poi la società sarà dotata di tutte quelle possibilità, occasioni e servizi tale per cui effettivamente si possa attuare nel concreto la liberazione della donna. Grazie. Visto che siamo qua a parlare di donne ma finora hanno parlato solo uomini, diamo la parola a Giulia Pustella che ci illustra brevemente la situazione giuridica, cioè la legge, diciamo, nella sua struttura generale, e un piccolo commento personale. Grazie. E diciamo anche perché ho iniziato a occuparmi tantissimo di questa legge, devo veramente anche io ringraziare la Lu, perché il 1 gennaio del 2008 sono stata eletta consigliere nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Siamo 21 componenti e io sono l'unica donna. Quindi è chiaro che il problema lo sento un po' sulla mia pelle. Abbiamo fatto la distribuzione delle deleghe in consiglio e ogni consigliere ha avuto una delega. Io sono stata fortunata e ho avuto la delega di cui io mi occupo per il mio lavoro, cioè crisi e risanamento. Poi a un certo punto il Presidente dice: ah mannaggia, ma noi avevamo nel nostro programma elettorale anche di occuparci e fare opportunità. E dice: beh, l'unica è Giulia. E così ho avuto l'unica consigliera, ho avuto una seconda delega. E ho detto, ma non credo, ma qual è il problema? In fin dei conti io venivo da Como, non avevo mai capito che in effetti c'erano dei problemi. E ho iniziato a studiare E quando ho iniziato a studiare il problema delle pari opportunità, il problema della conciliazione, ho capito che il problema esiste e come. Ho capito che non me ne rendevo conto perché un professionista del nord, una professionista del nord comunque guadagna a sufficienza, ma guadagna sempre molto molto meno di quanto guadagna un uomo nella stessa posizione con la stessa preparazione. Ho capito tantissime cose, di quanto sia più difficile per noi arrivare in certe posizioni. E quindi ho costituito una commissione pari opportunità, un comitato pari opportunità del Consiglio nazionale, che poi ha costituito tanti comitati in Italia. E quando ha iniziato a seguire i lavori della legge, ho detto veramente questa è una speranza, una legge molto importante, che sarà non certo un punto d'arrivo, ma un punto di partenza molto importante. E quindi per deformazione professionale parto da una brevissima esposizione di quello che è il contenuto tecnico della legge 120 del 12 luglio del 2011, che è entrata in vigore il 12 agosto, ma che verrà applicata a decorrere dal 12 agosto 2012, quindi c'è stato un anno, diciamo, di congelamento, il che significa che tutti i rinnovi delle quotate che capiteranno in questa tornata di primavera non saranno ancora interessati da una legge diciamo coercitiva in qualche misura, però l'effetto di moral suasion che questa legge sta svolgendo già lo si sente, perché molte grandi imprese stanno ragionando sui rinnovi di primavera, che anche se non c'è l'obbligo di legge vogliono cominciare di fatto a realizzare concretamente comunque quello che è il disposto della legge. La legge prevede nel caso delle società quotate e delle controllate pubbliche che, parliamo delle quotate innanzitutto, che lo statuto delle quotate preveda un riparto degli amministratori che sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, e in particolare il genere meno rappresentato, uscendo così dalla finzione possiamo dire tranquillamente il genere femminile, abbia almeno un terzo degli amministratori. C'è poi una norma che è quella che ha stabilito anche la decorrenza dal 12 agosto 2012, che però ha fissato che per il primo mandato il criterio del terzo debba scendere a un quinto. Quindi avremo un mandato con un quinto, il primo mandato con un quinto, due mandati con il terzo. E poi, dico perfettamente, in maniera corretta, la legge non sarà più cogente, quindi non ci sarà più una quota vincolata, ed è questo che innanzitutto rende la legge costituzionale, perché se questa non ci fosse stata questa limitazione del tempo, non ci sarebbe stata neppure il requisito della costituzionalità della norma e probabilmente quindi non avremmo questa legge. E poi perché io penso che sia proprio giusto così. Tre mandati, 9 anni, è un tempo sufficiente per scardinare una rendita di posizione, ma non bisogna andare oltre, perché non bisogna creare un tempo sufficiente per creare una nuova rendita di posizione, che non sarebbe giusto assolutamente. La stessa norma si applica sia nelle società con gli organi amministrativi, diciamo non quelli soliti, normali, quindi consiglio di amministrazione, collegio sindacale, ma anche con il duale e con il monistico. Che cosa succede se la norma non viene rispettata? Perché ovviamente le norme sono importanti nella misura in cui hanno un enforcement efficace. Penso che questo enforcement è diverso da quello che era previsto da come la legge è uscita dal Senato, però sia comunque un enforcement valido ed efficace. Che cosa succede? Che se l'elezione non rispetterà, quindi proprio il board dopo l'elezione non rispetterà questi criteri, la Consob, parlo delle quotate, dovrà dare 4 mesi di tempo perché una diffida, quindi, e 4 mesi di tempo perché la società si adegui. Se la società non si adegua nei 4 mesi, quindi non adempie alla diffida, a quel punto scatta una sanzione amministrativa che è particolarmente pesante e che può andare da 100.000 euro a 1 milione, più 3 mesi di tempo. Se dopo 3 mesi di tempo il pagamento della sanzione ancora la società non si sarà adeguata, allora decadrà il consiglio di amministrazione. Lo stesso identico meccanismo di enforcement vale per i collegi sindacali, però qui la sanzione che può essere irrogata va da un minimo edittale di 20.000 euro a un massimo edittale di 200.000 euro. Anche nel caso del collegio sindacale, nel caso del sistema dualistico, vale per il consiglio di sorveglianza. Le stesse norme, quindi un terzo, un quinto per un mandato e poi due mandati da un terzo, si applica anche nelle società a controllo pubblico costituite in Italia. Qual è la differenza? Che nelle quotate le modifiche devono avvenire nello statuto, mentre nelle controllate a pubblica amministrazione ci sarà un regolamento, quindi un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In effetti questo regolamento avrebbe dovuto essere assunto nei due mesi dall'entrata in vigore, questo non è ancora avvenuto, lo aspettiamo. Più, come già altri prima di me hanno detto, molto più efficace ed efficiente è stata Consob, che ha aperto una pubblica consultazione il 9 dicembre del 2011 e quindi sul sito Consob è andato la proposta di regolamento e l'8 febbraio 2012 effettivamente il regolamento è stato approvato e quindi concerne la disciplina degli emittenti. Diciamo due cose su questo regolamento Consob. Innanzitutto ha riaffermato il principio che in fin dei conti era in nuce anche nella legge dell'autonomia statutaria, quindi ha deciso Consob di rinviare assolutamente all'autonomia statutaria per individuare le modalità con cui applicare il criterio di riparto. È giusto, perché ogni società è a sé, ogni società ha un modo, ha una governance diversa, per cui era giusto fare così. Io sono assolutamente d'accordo, del resto anche il paper in pubblica consultazione ha dato questa cosa. Voglio notare a questo punto che è necessaria una modifica statutaria. Il legislatore avrebbe forse opportunamente potuto prevedere un'agevolazione a livello di quorum costitutivi e deliberativi, questo non è successo, per cui pur trattandosi di un adeguamento imposto dalla legge e sinceramente con ridotti margini di discrezionalità, bisognerà fare probabilmente un passaggio in assemblea. Da questo punto di vista sarebbe stato utile uno snellimento burocratico. Va però detto che ai sensi dell'articolo 2365 secondo comma del codice civile, in moltissimi casi gli statuti affidano alla competenza dell'organo amministrativo gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, a disposizioni di legge, e quindi si può dire che questo caso di fatto rientri, per cui mi immagino che la maggioranza delle quotate attribuisca all'organo amministrativo il compito di modificare lo statuto, appunto. Ancora una cosa molto interessante che è uscita dal regolamento Consob è che è stato deciso nel caso in cui il numero di consiglieri diviso per un quinto, per un terzo, non desse un numero finito, di dover fare, mi correggo, l'arrotondamento per eccesso. Per cui questo l'effetto è immediato, ad esempio, sugli organi di controllo, perché se abbiamo tre sindaci avrebbe fatto 0,6 il quinto, invece viene arrotondato per eccesso, per cui da subito avremo un sindaco su tre. E questo vale ovviamente anche per i consigli di amministrazione. Per cui arrotondamento per eccesso. E poi la Consob è intervenuta sull'apparato sanzionatorio. Ovviamente la condotta rilevante per far scattare la sanzione è l'inottemperanza alla prima diffida, quella dei 4 mesi. La Consob ha detto che è una responsabilità della società in proprio, quindi non ha importanza andare a individuare i singoli soggetti responsabili, è la società che sarà oggettivamente responsabile di questo. Per prendere poi posizione la Consob nel suo regolamento sul problema minimo e massimo, dice che si rifarà ovviamente ai principi generali, quindi avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità del soggetto e alle sue condizioni economiche. Questa è la legge, concordo con Marcello Iantorno, una legge ben scritta, una legge chiara, direi poco spazio per problemi esegetici particolarmente importanti, e ora, se mi si consente, un mio brevissimo commento. Io credo che questa legge abbia e ancora tuttora scateni moltissime reazioni positive, ma altrettante e forse più contrarie. Secondo me il problema nasce dal nome. Questa legge va volgarmente conosciuta come legge sulle quote di genere, diciamo che è sbagliato, è proprio sbagliato, perché parlare di quote fa pensare alle donne di essere considerate un soggetto meritevole di una tutela, perché non in grado di procurarsela da sole, quindi non piace, e fa pensare agli uomini di dover cedere qualcosa obbligatoriamente per legge alle donne che, senza meritarselo, quindi senza un principio di meritocrazia, debbano avere qualche cosa. Io credo che i nomi pesano come macigni. E quindi, a mio avviso, questa è una legge contro la discriminazione. La discriminazione di un genere, quello femminile, che in Italia è il 51,4% della popolazione. Per cui ci troviamo di fronte ad un apartheid di una maggioranza. Di solito l'apartheid lo conoscono le minoranze. Quindi, se chiamassimo meglio, secondo me, questa legge come legge contro le discriminazioni con di un genere, a mio avviso già sgombreremo il campo da tantissimi pregiudizi. Dicevo, il mio giudizio sulla legge è positivissimo, però non nascondo che ovviamente è orientato dall'approccio ideologico che io ho. Io credo che sia giusto che lo Stato si faccia carico di spingere un paese, il nostro paese, verso un miglioramento. Quindi credo che se vede una certa lentezza da parte del paese debba dare una spinta, e quindi io ho accolto con grande favore questa novità legislativa. D'altro lato, nell'iter legislativo io trovo che il servizio studi del Senato abbia scritto delle parole che siano proprio tranchant, perché c'è poco da discutere. Dice il servizio studi del Senato che nelle società quotate, ovviamente, le società quotate avrebbero dovuto essere più aperte a una selezione personale dirigente fondata su criteri schiettamente meritocratici, con l'impiego dei quali la presenza delle donne nei board direttivi avrebbe sicuramente spontaneamente raggiunto livelli di equilibrio rispetto a quella maschile. Prosegue il servizio studi del Senato. Nella realtà dei fatti ciò però non è accaduto e non accadrà senza un correttivo adeguato, a causa della diffusione di ostacoli culturali al pieno riconoscimento delle pari opportunità nei gradini superiori della scala gerarchica dell'impresa. La presente proposta di legge perciò intende fornire un correttivo alla situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle postazioni apicali delle imprese quotate. Non faccio chiose perché è self-explaining. È chiaro che tutte avremmo preferito che ci fosse una naturale evoluzione naturale che portava ad avere, io non direi neppure un terzo, direi il 50% delle donne nei board e negli organismi di controllo delle quotate quantomeno. Però questo non è stato, anche se va detto che le donne dagli anni 70 ormai hanno superato il gap culturale, per cui ci laureiamo più degli uomini, ci laureiamo prima, ci laureiamo con voti più alti. Siamo il 51% della popolazione, sinceramente a mio avviso dovremmo naturalmente tendere ad essere il 50% in tutti i consigli di amministrazione, in tutti i luoghi, anche in quelli dove si esercita il potere. Quindi alcune persone contrarie hanno detto che questa norma, dando un obbligo imperativo di legge, ancorché per un periodo limitato di tempo, come abbiamo sottolineato, pone una limitazione alla meritocrazia. Io credo che sia vero e per me vale il contrario. Quindi credo che sia vero il contrario, perché la competizione, anzi, ne uscirà sicuramente aumentata, perché il fatto che anche le donne concorrano per questi posti cercherà di portare in evidenza i migliori fra gli uomini e fra le donne. Ma d'altro lato la vera domanda, a mio avviso, è: ma oggi esiste la meritocrazia? Io credo che nei consigli di amministrazione delle quotate oggi esista la più assoluta cooptazione fra simili. Cioè ci si coopta perché si è dello stesso genere, perché si è dello stesso partito, perché si frequentano gli stessi circoli. E questo oltretutto ha creato un'enorme limitazione dell'indipendenza e un grave problema di conflitto di interessi, perché abbiamo gli stessi soggetti che circolano sempre nelle stesse posizioni, li abbiamo ad esempio nei consigli di amministrazione delle banche che devono, e anche nei consigli di amministrazione di quelle società che invece devono avere accesso al credito da quelle banche. Per cui di sicuro, a mio avviso, non potremo che migliorare. Ci sarà una discontinuità che verrà introdotta, ci sarà un nuovo modo di pensare, a mio avviso per il bene del paese e non per il bene delle donne, per il bene del paese. Certo che noi donne dobbiamo avere il coraggio, quando entreremo nelle stanze dei bottoni, di essere portatrici sane di diversità. La diversity è un valore importantissimo. Certo, non c'è solo la diversità fra i generi, c'è la diversità per l'età, c'è la diversità per la provenienza, però noi oggi ci stiamo occupando del problema del femminile. Quindi dobbiamo restare connotate con le nostre caratteristiche di femminilità, perché soltanto se andremo a instaurare una dialettica fra i generi, maschile e femminile, che effettivamente quel consiglio di amministrazione potrà dare migliori risultati risultati in termini di gestione. Questo è stato dimostrato da uno studio di McKinsey e del CERVEL, che ha dimostrato che laddove ci sono i due generi nel gestire un'impresa, proprio la dialettica che si instaura produce le scelte migliori. Ma allora, per essere veramente portatrici del nostro pensiero femminile, diverso, come ci diceva il direttore prima, dobbiamo non avere una posizione di contrapposizione preconcetta rispetto al pensiero maschile, e non dobbiamo però nemmeno avere un appiattimento sul pensiero maschile. E allora bisogna non essere da sole. Io credo di essere molto testona come Marisa Bellisario, e quindi nel mio consiglio nazionale, anche se sono da sola, io ho sempre il coraggio di dire la mia. E infatti, onorevole, quando abbiamo fatto un comunicato stampa a favore della legge, quando aveva qualche difficoltà al Senato, lei ricorderà bene, io sono riuscita a ottenere che il Consiglio nazionale si esprimesse su questo punto, e poi è stato anche redarguito in effetti da alcuni presidenti che hanno detto: ma perché avete preso questa posizione? Perché io ho insistito perché lo facessero. Vado a chiudere. Quindi bisogna essere da sole non va bene, e proprio bisogna quindi essere di più, ed è per questo che qua viene previsto un quinto, un terzo, un terzo. Io credo che fra tre mandati vedremo se con i nostri meriti, con le nostre competenze oggettive, riusciremo davvero a essere confermate almeno in questo terzo, e questa la cartina al tornasole ce l'avremo fra 9 anni. Certo che parlare di questo tema significa anche farci venire chiaramente in mente che nell'agenda politica il tema della conciliazione fra la vita professionale e l'impegno di cura che spetta ancora e soprattutto alle donne deve diventare centrale, perché dobbiamo avere un aiuto nel nostro impegno di cura se vogliamo poterci occupare bene ad alto livello professionalità ad esempio dei consigli di amministrazione, perché non si può pensare diversamente. E d'altro lato è un dato di fatto che ancora oggi in Italia dei figli se ne occupano di più le donne, degli anziani se ne occupano più le donne, dei nostri genitori, dei genitori dei nostri mariti. Dobbiamo essere aiutate. Oltretutto lo Stato, per mancanza di soldi, sta arretrando terribilmente dagli impegni sociali, e quindi sempre più noi donne dobbiamo andare in funzione di supplenza. Allora io dico sempre che noi donne rappresentiamo veramente la big society, ciascuna di noi è una piccola onlus, e vorrei che il nostro codice fiscale potesse ricevere il 5 per 1000 tranquillamente ogni dichiarazione dei redditi. Grazie. Ma questo non, sono convinta davvero, non per il nostro egoistico interesse, ma per il bene comune della nostra società e dei nostri figli, maschio o femmine che siano. Grazie. Onorevole, c'è molta passione, molta rabbia, ma positiva, no? Nelle parole di Giulia. Di recente l'economista del Boca ha detto che è ora di passare dalle parole ai fatti. Ecco, la legge c'è. E adesso che cosa bisogna fare? Qual è il passo successivo? Intanto buonasera e grazie per questo invito. Per questo invito. È difficile, dopo l'intervento dell'amica, iniziare. Avete spiegato tutto, così bene, avete detto tutto, che forse a me rimane poco o poche cose da dire. Vorrei partire però io da quel filmato, perché se non partiamo da quel filmato credo che non capiamo dove stiamo arrivando e dove stiamo arrivando. Quel filmato traccia la storia di una donna, una di noi, forse o più fortunata di noi, non lo so, che ha conquistato con la sua forza, con i suoi studi, che alla famiglia alle spalle non aveva nessuno, quindi non era una di quelle cooptate, era una donna che si è fatta da sola. E quindi ha dimostrato, l'abbiamo visto in Confindustria, che era quell'immagine, l'unica donna che sedeva nel consiglio dell'assemblea di Confindustria. Quindi una donna che ha dimostrato capacità, ha risanato un'industria perché era un fallimento totale, aveva tutti i sindacati contro, lei è riuscita a dialogare, cioè quello che sta facendo oggi il nostro ministro Fornero. E quindi ce l'ha fatta. Lella Golfo, che viene pure da una famiglia normalissima, da ragazzina, vedendo questa donna in televisione, prime pagine dei giornali, per me, ma perché un giorno non posso essere anch'io Marisa Belisario? E mi sono posta questa domanda. Io vedo tanti ragazzi in fondo che credo che sono qua stasera per ascoltare non tanto il meccanismo della legge, ma quali effetti avrà questa legge su di loro. E quindi io ho lavorato, mi sono inventata questa fondazione Marisa Belisario, quel filmato si arriva a 20 anni, ora ne abbiamo 24, quindi manca il passo successivo, che è quello del mio ingresso in Parlamento, che tutto pensavo meno diventare parlamentare. E quindi muore Marisa Belisario, io ero una ragazzina calabrese che ho detto bisogna ricordarla questa donna, io non la conoscevo, non era mia amica, non era mia parente, non era niente. Era soltanto questo desiderio, proprio questo mito, questo punto di riferimento che per me era importante per tutte le donne, per tutte le ragazze, le donne italiane. Quindi nasce la Fondazione Marisa Belisario, io comincio ad avere contatti, incontri con le donne di tutto dal nord al sud, e quindi ognuno di noi, ognuno di voi dentro c'ha i problemi che hanno tutte le donne che poco fa l'avvocato elencava. Quali sono stati i passi che abbiamo fatto? Quindi entrando nel Parlamento, io la prima cosa che ho pensato è che bisogna fare qualcosa seriamente per le donne. E io mi meraviglio che le mie colleghe di prima, molto più brave di me, molto più capaci di me, non ci hanno mai pensato. E ci ha pensato una che tutto sommato si è trovata in un partito che poi non è poi così aperto, non alle donne perché non è giusto dire questo, però con una visione un po' che era quella, ricordiamoci, dell'ABI, della Confindustria e di Anna, perché io quando ho presentato questa legge mi sono trovata addosso tre colossi che sono ABI, Confindustria e ANIA contro questa legge. E questi erano dei giudizi che pesavano sulla politica. Quindi immaginate su di me, già sono piccola, per cui è stata una cosa abbastanza pesante, importante. Pensate che questa è, il Parlamento ha votato 41 leggi di iniziativa parlamentare e questa è una delle 41esime leggi che sono state approvate. Quindi è un fatto epocale per le donne. E io non sono stata una, non ho mai amato le quote, cioè io proprio, anzi litigavo con le mie amiche che già nella prima commissione pari opportunità che risale al 1984, loro, quando c'era anche Marisa Belisario in quella commissione che si occupava di nuove tecnologie, loro già parlavano di quote e io questa parola non mi piaceva, no? Come tutte noi, però è il male minore, perché se no, se non si rompe questo tabù, non andiamo da nessuna parte. Comunque, questa è la storia. La storia ci dice che c'è una legge, per fortuna strada facendo la mia collega Alessia Mosca. Che dell'altro partito del PD si è associata dopo 9 mesi, ha presentato anche lei la stessa proposta mia, sono state unificate, quindi insomma diciamo che ormai è una legge. Che cosa significa per l'Italia questa legge? Vogliamo fare altre domande o vado avanti? No, negli effetti. Che cosa significa questa legge? Significa che dal 12 di agosto in avanti tutte le società che vengono rinnovate, sia le società quotate sia le società controllate dalla pubblica amministrazione, devono adeguarsi, devono mettere questo 20% di quota femminile, quota di genere, chiamiamola quota di genere perché è più giusto che sia così. Lei ha raccontato per filo per segno quello che succede, quindi no, io non lo ripeto, però quando ho pensato a questa legge ho pensato pure che proprio la decadenza del consiglio d'amministrazione era la cosa più importante da inserire nella legge, perché guardate, anche la Francia quanto riguarda le quote politiche ha fatto una legge con la penale, però poi alla fine le grandi industrie, i grandi partiti hanno preferito pagare la penale, ma comunque, mentre qua decade il consiglio, quindi questa è una cosa abbastanza forte, importante, dura 9 anni, il tempo che si cambia la cultura del nostro paese, cioè non è un grande sforzo che devono fare. Cioè devono proprio cambiare mentalità, ragionare in maniera diversa, e anche perché, cioè, in questi consigli di amministrazione tristi che ci sono, perché poi sono tristi questi consigli di amministrazione, solo di maschietti che nessuno li controlla, nessuno li verifica, non sappiamo se sono bravi, se hanno studiato, se sono meritevoli, sono tra di loro fanno squadra, e invece noi, ecco, questa è una cosa importante, guardate, noi donne, purtroppo noi non facciamo squadra. Ecco, qualcuno qua stasera ha detto se non ora quando questo movimento che è nato si sta, cioè. Allora, io mi ricordo che la legge approvata al Senato, questi avevano una manifestazione a Siena, avessero detto una parola, eppure era un movimento di donne. Perché? Perché poi io non concedo a te perché tu sei là, io sono di qua, io sono più intelligente di te perché lei l'ha fatto e non ci abbiamo pensato. Ecco, allora, siccome io ragiono in maniera completamente diversa, io ringrazio il PDL che mi ha fatto entrare nel Parlamento, ma mi ha fatto entrare con la mia identità, con la mia personalità, con la mia cultura, con il mio modo di essere. Io non sono una che cambia casacca, cioè io sono una nel momento in cui capisco che non posso realizzare determinate cose, dico arrivederci e grazie, tolgo il disturbo. E questo che bisogna fare, bisogna capire, bisogna essere, perché solo così cambieremo le cose in questo paese. Questa è una legge che aiuterà, perché aiuterà l'economia, aiuterà le aziende, aiuterà le donne. E finalmente, ecco, se c'era ancora da dimostrare, lo dimostreremo con le nostre capacità, con i nostri meriti, col modo nostro di fare, perché siamo oneste, questo lo dobbiamo anche sottolineare, perché noi siamo, le donne sono oneste, ci sarà qualche eccezione per carità, però profondamente siamo oneste. Ecco, a proposito di meriti, Gianni Bucciari ha detto che in Italia la parità le donne la raggiungeranno solo quando una donna incapace riuscirà ad avere il potere, ad avere un ruolo decisionale. E invece so che voi come Fondazione Bellisario avete raccolto profili e curricula di donne altamente capaci. Esatto, allora l'iter di questa legge è stato abbastanza tortuoso, travagliato, perché insomma non è stata una cosa facile, infatti il Senato, questa discussione pesante, poi che cosa si diceva? La cosa che correva, ma le donne non ci sono, ma questi dove vogliono andare, questi ci rovinano, le donne non sono preparate, non sono brave, bla bla bla bla bla bla. Allora, come Fondazione Bellisario abbiamo lanciato una campagna di 1000 curricoli eccellenti. E vi devo dire la verità, io quando ho detto 1000 curricoli eccellenti, ho detto, oddio, ma ce la facciamo a raccogliere 1000 curricoli eccellenti? Beh, in corso di 4 mesi ne abbiamo raccolto 2500, senza avere poi grandi mezzi di comunicazione, se non il passaparola delle donne. Quindi, ancora una volta, abbiamo dimostrato che ci siamo e questi 2500 curricoli, guardate che il 93% ha una laurea, il 73% ha la laurea e parla 2-3 lingue, c'è chi ha il, adesso non mi ricordo bene, ma insomma un altro 60% ha 3-4 master, e il 15% ha esperienza aziendale. Cioè, quindi, che dobbiamo dimostrare di più, dico io? Ecco, prima magari di lasciare la parola anche a voi, se avete qualche domanda, io riflettevo un attimo su quello che è il tessuto lavorativo del nostro territorio, che è fatto soprattutto di piccole imprese e di artigiani. Ecco, io so che anche nell'ambito dell'artigianato le donne sono tante, sono volenterose, hanno tante idee. Mi diceva prima Ornella di una ragazza che è stata premiata oggi al Palazzo delle Stelline. Quindi, che cosa si può fare per dare a queste donne la possibilità di lavorare? Intanto devo dire che secondo i dati di Confcommercio sono nati nel 2011 10.000 imprese di piccole aziende, di piccole imprese al femminile. E secondo me quello che si deve dare è, io sono stata una che si è proprio convinta della legge 125, perché quella legge sull'imprenditoria femminile era una legge che ha aiutato le donne, che avendo dava un fondo per un tot a fondo perduto, e quindi c'è stata la possibilità di aprire una serie di piccole imprese. E la situazione è quella che è adesso, quindi i soldi non ci sono, insomma, eccetera, quindi lo sappiamo, però io credo che quella è una legge che bisogna riprendere, una legge che bisogna riprenderla, e io sono convinta adesso, ne parlerò con il ministro Passera, perché credo che una parte di soldi che si ricavano dall'innalzamento delle pensioni possono essere veramente destinate all'imprenditoria femminile, perché il nostro paese deve alzarsi e bisogna che cresca. Per crescere bisogna creare delle attività, e le attività, se tu non hai soldi, come fai a crearli? E siccome diciamo il posto fisso ormai insomma, non è più l'obiettivo, anzi non è, cioè non sarà, non potrà essere, e quindi dobbiamo avere dei mezzi autonomi per, diciamo, in qualche modo aiutarci. E io credo che questo veramente è quello. Tra l'altro c'è una legge che è stata già approvata alla Camera che al Senato, che rientra un po', insomma, quindi si può fare qualcosa. D'altra parte io credo che questo governo insomma, ha tutto l'interesse e tutta l'intenzione di dare un aiuto concreto al mondo produttivo, perché insomma qua ci giochiamo tutto col mondo delle piccole imprese, insomma noi siamo, reggiamo sulle piccole e medie imprese. Come Fondazione Belisario io vorrei fare adesso, siamo in un punto, fare una convenzione con una grande banca ed essere noi proprio il testimoniale di questo rapporto tra la piccola impresa e la banca. È un'esperienza già fatta in passato, l'abbiamo fatto con la banca con Monte dei Paschi e insomma in 3 anni siamo riusciti a dare sostegno e aiuto a una settantina di piccole imprese, sia come nascita che come innovazione, quindi intervenire proprio in questi campi. Quindi penso che è una cosa importantissima questa. Forse bisognava rispondere alla domanda che aveva fatto prima l'avvocato Iantono riguardo. Allora, per quanto riguarda le leggi nel controllo pubblico, insomma, quindi la legge è uscita come lei giustamente ha detto, il Ministero della Pubblica Amministrazione e il Ministero del Tesoro, anzi prima il Ministero del Tesoro e poi il Ministero della Pubblica Amministrazione, nel senso del Tesoro deve fare il regolamento e avrebbe già dovuto farlo. Io ho già fatto un'interrogazione, un'altra l'avremo la prossima settimana, però devo dire che doveva essere fatto a dicembre è arrivato il nuovo governo, quindi questi ancora insomma devono un po' capire, insomma, mentre l'altro sottosegretario ormai insomma veniva in commissione, eravamo tutti d'accordo, però credo questi hanno un po' così rivisto, però non ha assolutamente nessuna paura. La prossima settimana io credo che siamo anche perché insomma non possono tirarsi indietro, che non rimangono cioè il regolamento, una volta che la legge lo richiede, insomma, il ministero competente è obbligato a darlo, cioè non è che possiamo più scherzare, per cui io penso che è più un fatto burocratico che non un fatto sostanziale. Ho dei dubbi, considerato peraltro anche la platea, nel senso che se no mi permetterei di entrare in tecnicismo, ho dei dubbi riguardo, qui si parla di un regolamento governativo, la mia domanda, la mia curiosità, riguarda quando abbiamo discusso, cioè in commissione del regolamento, allora il regolamento lo fa il Ministero del Tesoro, poi singolo individuo, e noi avevamo individuato il CERPET, che è già una commissione che vigila, esatto, che sta in pubblica amministrazione, di dare la competenza di controllo al CERPET. Questa è la cosa che noi pensavamo. Nei comuni, le società partecipate dai comuni, sì. Possiamo noi, semplicemente applicare questa regola, appellarci a questa legge 120, la mia domanda è questa. Ma nel momento che c'è il regolamento, per forza non si può, quindi in questo momento... Pensavo che sulla base dell'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali, essi stessi dovessero dotarsi di uno strumento di questo tipo. No, quello strumento è nazionale assolutamente. Io ho una domanda, posso fare una domanda? Per entrare in un rapporto, diciamo, io ho l'impressione, per arricchire poi il ragionamento naturalmente, non è. Ovviamente questa è una legge che anch'io ritengo estremamente importante, perché se non altro porta sul terreno concreto un problema, che è un problema storico. Però non possiamo non dirci che comunque naturalmente si parla soltanto appunto di equilibrio di genere all'interno di situazioni che sono naturalmente situazioni diciamo privilegiate, di vertici apicali, no? tutta la problematica dell'equilibrio di genere, dell'affermazione della donna, quindi del superamento della discriminazione, questo è un inizio, giustamente, è enorme, perché riguarda poi tutti gli altri ambiti. Peraltro io qui ho un dato statistico, per esempio, e le faccio questa domanda. Potrebbe essere che, come ora, all'interno, noi abbiamo una situazione che sembrerebbe sulla base di circa 175 posizioni di consiglio, nelle grandi società quotate, circa un centinaio di donne appartengono alla famiglia dell'azionista di riferimento. No? Chi potrebbe dire, chi non potrebbe dire che pur applicando il criterio un quinto, un terzo, un domani, non si vada a questa sorta di coabitazione familiare, una sorta di perpetuazione di una situazione discriminatoria? Capito, io non ci credo a questo, perché ormai abbiamo, questa legge ha creato un tale movimento nel paese, una tale attenzione, che tra l'altro quello che non ho detto è che ho proposto al ministro Fornero un osservatorio che segue un po' l'andamento della legge, cioè no, che osserva e che cammina insieme alla legge. Quindi questo osservatorio credo che più o meno ci arriveremo. Era quasi fatto con la ministra Carfagna, però poi ci sono stati questi cambiamenti, quindi come ritorno di nuovo a dire che insomma ci vuole la macchina, deve di nuovo mettersi in cammino, eccetera. Però io questo passo l'ho già fatto, io ho trovato molta sensibilità e io credo e sono certa che questo osservatorio sarà, inizia questo lavoro e non ha assolutamente nessuna concetto. È assolutamente, perché non può, perché ci sono già gli scioglimenti eccetera, però fatto da persone importanti, di prestigio eccetera, può sicuramente nel momento in cui sa che l'azienda si sta per rinnovare, allora chiama, dice come vi comportate, noi. So, quindi questa è una cosa che ci sarà. Però io sono convinta anche di un'altra cosa, che le aziende che adesso cominciano a i rinnovi, noi adesso questa primavera, di qua a giugno, ne abbiamo 115 che vanno in rinnovo, e io già mi sento chiamare, si stanno pensando. Anche perché, guardate, l'ingresso delle donne nelle CDA è una cosa che fa bene a loro. Cioè, qua poi chi decide il mercato? Quando una società va avanti, produce, è il mercato che la premia. Cioè, ormai anche qua la mentalità, la cultura è diversa rispetto a come si ragionava un po' di anni fa. Anche la società della famiglia, magari una volta aveva pure il sostegno da parte dello Stato, adesso questi rubinetti sono ormai chiusi e quindi si deve attrezzare, e credo che le donne saranno veramente la differenza, perché le donne quando arrivano preparate, perché li obbligano a discutere, perché prima facevano in fretta, ma insomma una donna quando si siede, secondo me, si discute, ci si confronta, e questo confronto poi non è tanto per farlo, ma si discutono piani, si discute di economia, si discute di sviluppo, e questo è il bene dell'azienda, è quello che noi vogliamo, è quello che sta, almeno crede il governo Monti, e Monti in prima persona. Cioè, quindi ormai le barzellette non le possiamo più raccontare. Cioè, ognuno di noi, io credo, lo stiamo già vedendo, la vita è cambiata, cambierà, cambia ogni giorno. Cioè, dobbiamo pensare che dobbiamo vivere sulle nostre capacità. E quindi si cambia il tutto. Quindi, cioè, noi non stiamo facendo un piacere alle donne, noi facciamo un piacere alla società, facciamo un piacere al mercato, facciamo un piacere all'economia, cioè l'economia del nostro paese che deve crescere, deve svilupparsi, deve innovarsi, che poi le donne che entreranno in questi consigli di amministrazione sono pure giovani, e proprio per il dato che dicevamo prima, e quindi portano freschezza, portano rinnovamento, cioè donne che hanno già fatto 4 master all'estero, quindi portano un bagaglio di cose nuove che noi, che il nostro paese ha bisogno. Ornella, tu volevi fare? Vorrei dire che intanto finalmente abbiamo una legge che ci dà un po' di spazio e ci dà delle percentuali che speriamo di prenderci, perché io sono anche convinta che bisogna volersele prendere, perché al di là delle quote rosa prendiamoci la quota che ci spetta dentro ai consigli e dentro alle, e non facendoci mettere da parte, perché credo che abbiamo niente da invidiare a nessuno. E poi l'impresa, ne ho parlato prima, l'impresa è una cosa coraggiosa però che le donne sanno fare ultimamente al meglio, e se fanno impresa è anche difficile che falliscano, perché sono abituate ad avere a che fare con i conti quotidiani. L'altra cosa importante è che, e vorrei dirlo a quei giovani lì, che fare impresa o fare attività o fare politica, e bisogna impegnarsi, bisogna appassionarsi, bisogna avere voglia e bisogna prendersi quelle quote che ancora ci mancano, perché il mondo è vostro ed è davanti a voi ed è il futuro, e il futuro è sicuramente della scolarizzazione, come ha detto l'onorevole, che noi siamo più scolarizzate, non io perché io sono di un'altra generazione, ma ho fatto il mio percorso ugualmente, ma voi che sarete sicuramente sempre più scolarizzate, sempre più nel mondo. Io ho a che fare per il mio mestiere tutti i giorni con le donne e vi assicuro che sono solo preparate, ma lo sono di più che preparate, e sanno affrontare qualsiasi cosa. E anche nella politica io credo che dovremmo fare più gruppo, noi dovremmo sostenerci come lo fanno gli uomini, e credetemi, le donne non sono più stupide degli uomini, credo che in politica ce ne siano molti di stupidi. Gli uomini invece come l'hanno presa questa legge? Perché in fondo una società davvero equilibrata sarebbe bello che si riuscisse a lavorare insieme. Sono malissime, proprio in maniera, anzi no, ero convinti che io non ce l'avrei fatta, quindi insomma mi davano per spacciata, come si suol dire, è solo che hanno trovato una di tosta e quindi ho messo proprio i paletti, o così, e quindi secondo me tutte le donne che stanno in pensionamento, ecco, lavorassero un po' così, alla fine, come si dice, il chiodo a furia di spingere entra, e io l'ho fatta entrare, e quindi questa legge l'ho portata a casa. Comunque non solo questa, io ho altre 5 leggi in Parlamento che secondo me, allora, una è questa commissione di garanzia per le pari opportunità nella pubblica amministrazione, perché è vero che ci siamo occupati del privato, perché era più facile, abbiamo cambiato, ci siamo inseriti nell'articolo 147 e quindi è stato facile, perché la mia idea all'inizio era un'autority delle pari opportunità, però non ce l'ho fatta perché i soldi non c'erano, l'autority costa. Poi c'è questa campagna di questi giornalisti che proprio, quindi un'altra autore di molte donne, smettiamola, e qua e là, e siccome poi veramente i soldi non c'erano, mettere in piedi un'autore, insomma, io ho avuto il buon senso di dire, vabbè, vediamo un po'. Però ho pensato, ho detto, vabbè, allora facciamo una commissione di vigilanza, prendiamo i dipendenti dello Stato che non ci costano, e quindi a costo zero facciamo la commissione di garanzia per la pubblica amministrazione. Io credo che la prossima settimana cominciamo a discuterla in commissione, per cui questo sarà un altro pezzetto per quanto riguarda le donne nella pubblica amministrazione, perché è inutile che vi do i dati, cioè insomma, è una cosa proprio, mentre la pubblica amministrazione si regge sulle donne, perché tra insegnanti, eccetera, sono tutte donne, però se andiamo poi ai vertici non ci stanno, per cui questa è un'altra cosa di quella che sicuramente inciderà nel nostro tessuto. Un'altra è quella del congedo parentale obbligatorio per gli uomini, perché sti figli, insomma, sono pure loro, mica sono solo nostri, qualche volta si devono occupare, siccome c'è già il congedo parentale, non so, ma non viene preso, gli uomini lo prendono. Allora, prendiamo obbligatorio, e questa è un'altra mia proposta di legge, perché pure questo. Io quando ne ho parlato con i miei colleghi maschi sono stata accusata di volere uno stato etico. Etico. Vabbè, io credo. Penso che il cambiamento culturale sia ancora di là. I miei colleghi sicuramente non erano giovani, perché se io parlo con quei giovani là, l'hanno, sono diversi, l'hanno capito. Speriamo. Perché incominciano proprio con un'altra cultura, andiamo a quelli. Però credo che anche questo è una cosa importante. Un'altra mia legge che giace, ma io spero in qualche modo di farcela, proprio per le cose che dicevamo prima, per non vedere sempre gli stessi consigli di amministrazione che poi girano, però sono sempre loro, quindi avere una carica e basta. Sta solo consiglio di amministrazione. Questa è un'altra mia delle proposte di legge che sta. Allora, io quello che ho fatto lo devo veramente alle donne, perché quando attorno a questa legge, guardate, si è creato un tale movimento spontaneo, meraviglioso, perché appena c'era un intoppo arrivavano 5.000 mail alla persona che in quel momento frenava. Quindi a un certo punto, alla fine, però non ce la facevano più, e la legge è andata. E quindi io mi auguro pure di portare a casa quest'altra. Il tragitto è breve, perché ormai abbiamo un annetto davanti, però se c'è la buona volontà della politica, queste cose si fanno in un mese. Una legge in un mese si fa, quando si ha la volontà politica. Se non si ha, ti bloccano, ti fermano, però io insomma non sono una delle morte. Onorevole, la questione del congedo parentale obbligatorio per il partner. Noi, come Genio Donna, abbiamo una posizione molto precisa ed è questa, istituire un congedo parentale per il partner uguale a quello della moglie. Perché esistono dei progetti di legge in Parlamento che così sono chiamati bipartisan, che arrivano a concepire al massimo 4 giorni, 5 giorni. Ma è obbligatorio? Sono quasi 20 giorni. No, comunque adesso ce ne sono 5, verranno unificate e quindi ho capito, però troveremo la soluzione più ottimale. Il fatto appunto è il meccanismo, è quello che lei ha messo in moto con la 120. Il meccanismo da mettere in moto è proprio questo: un istituto che obblighi a vedere la famiglia come un fatto che scaturisce dalla cooperazione di entrambi i coniugi, e quindi anche l'educazione, l'allevamento, la cura deve essere un fatto che viene affrontato al 50% e viene affrontato anche nelle aziende, negli uffici pubblici, cioè deve acquistare cittadinanza, come lei ha fatto con la 120. Comunque, così dobbiamo fare. Io sono convinta di questo, però guardate che di donne, di problematiche del lavoro, della famiglia, cioè, non se ne parlava più in questo paese, cioè, ricordiamocelo, non si parlava più, sembrava che, cioè, il femminismo era scomparso dalla scena, cioè, sembra che non c'era stato in Italia questo grande movimento che stava il movimento femminista in Italia, al di là di magari di momenti non tutti felici, insomma, ci sono stati momenti aspri che magari io neanche condividevo, però è stato salutare perché ha messo in moto insomma un po' di discussione. Poi è finito, non se ne è parlato più, è finito. Questa mia legge ha avuto anche questo merito, di discutere, no? Se noi siamo stati, siamo qua stasera a Como, e credo che anche merito di questa legge che a un certo punto ci fa discutere e ci fa prendere proprio coscienza dell'importanza e del valore, perché credo che le donne devono pure abituarsi a presentarsi, perché noi siamo sempre un po' la paura, ma dobbiamo sempre dimostrare di essere delle volte più brave, cioè non, sempre un po' così. Adesso, cioè, togliamoci proprio veramente questo velo davanti, diciamo, io valgo, io sono, io voglio, e voglio quello che mi spetta, né più né meno, come, senza fare nessuna guerra, perché qua non siamo per fare guerre, anzi, nella serenità più impossibile, far parte questa legge durano 9 anni, è il tempo necessario proprio per cambiare un po' la cultura dei nostri cari. Certo, penso che sia importante proprio questo aspetto, no? Che la legge in questo caso diventa prodromica al cambiamento culturale. Ecco, io volevo solo brevemente delle domande, mi raccomando, concise. Ragazzi, fateci pure andare a cenare stasera, mi raccomando. Scherzo. Collaboriamo. Grazie, buonasera, innanzitutto grazie per questa serata. Io sono Federica Peraboni, sono un avvocato di Como. Volevo fare una domanda forse un pochino tecnica, diciamo, magari mi è sfuggito fra le righe, io ho letto un po' il testo normativo, forse non ho capito bene una cosa. La faccio all'onorevole, ringraziandola, ma anche se vuole rispondere la dottoressa Costella. Io leggo nell'articolo 1 della legge, si dice che nei casi appunto in cui l'equilibrio tra i generi non sia rispettato, la Consob diffida la società, no? Allora mi sono posta questa domanda: la diffida viene fatta autonomamente dalla Consob, nel senso che la Consob acquista una attività di sorveglianza diretta su varie società, l'osservatorio. Ecco, perché oppure poteva anche essere presentata su istanza di parte, tra virgolette, cioè quando all'interno di una società il proprio CDA presenta appunto questa differenza, questo disequilibrio di genere. Mi chiedevo se magari una dipendente potesse sollevare questa questione, ovviamente con tutti i pro e contro che però questo comporterebbe, perché dipendente di una società che solleva questo per il proprio CDA mi sembra un pochino che, insomma, possa in un certo senso creare qualche titubanza nei confronti della dipendente. Non so se mi sono spiegata. Sì, e la Consob, dall'altra parte, se dovesse fare questa attività in via autonoma, mi sono chiesta, ma a questo punto vado a verificare il direttivo della Consob e ho trovato che sono tutti maschi, tutti uomini. Quindi a questo punto mi chiedo, funzionerà davvero? Grazie, scusate. No, io credo che per questa... un'altra avvocata, sì. Viene da Milano, Salvo Cardino. Questa è una città di avvocati. Salvo Cardino, avvocato a Milano, è presidente di un'associazione di consumatori che ha fatto un'esperienza unica negli ultimi 10-15 anni di frequentazione delle società quotate in borsa e di verifica di quello che è successo. E devo dire che il risultato è tutto da scrivere, perché il sistema dei controlli non ha assolutamente funzionato. E il risultato è stato che gli azionisti maschi e femmine di tutte le principali società quotate sono stati tutti pelati con operazioni straordinarie, in cui gli unici a guadagnare sono stati i gruppi di controllo di queste società, che utilizzano sistematicamente tutte le operazioni straordinarie, intendo l'operazione di fusione, eccetera, per rapinare il risparmiatore. E questo lo dico, è una chiacchiera, però posso documentarlo. Però il problema è che non ma serve. Ma riguarda la legge. No, no. Allora dicevo questo, plaudendo alla vostra iniziativa e ascoltando il richiamo anche all'etica che aveva fatto la signora Colonel prima, penso che si potrebbe si potessero le donne dare un contributo positivo sotto il profilo proprio etico. Ma è questo come è possibile fare laddove i gruppi di controllo che controllano i grandi gruppi nominano sia gli amministratori che sia la stragrande maggioranza degli amministratori che la stragrande maggioranza degli organi di controllo? Non sarebbe forse arrivato il momento di pensare a una scissione di questa doppia nomina? E cioè, voglio dire, perché non dire che amministri chi ha la maggioranza delle azioni? Ma il controllo, cosa vuol dire il controllo? Vuol dire che l'amministrazione di una società sia conforme a legge e statuto e quindi che sia negli interessi degli azionisti tutti. Ecco, ma questa è una funzione di arbitro, perché non delegarla a soggetti che vengono eletti all'interno di una lista di avvocati, di commercialisti e solo all'interno, è a turno, senza che ci sia possibilità di scelta? A questo punto le donne che sono in queste categorie di avvocati e di commercialisti sicuramente in una misura superiore al 20, al 30, al 40% probabilmente, va bene, rientrerebbero in modo sicuro in questi organismi di controllo, da un lato, e dall'altra si recupererebbe all'etica il comportamento di queste società che oggi hanno portato di fatto, perché il nostro paese è lo sfascio, insomma ci sarà pure un motivo, ecco. Quindi questo è un po' il quesito. Quindi perché non dire gli amministratori, non tanto gli amministratori quanto i sindaci eccetera, siano nominati da liste predisposte tra gli iscritti, agli albi, agli avvocati e dei commercialisti. In questo modo la funzione di controllo non è più legata agli stessi che nominano gli amministratori. Per rispettare il principio di legalità e di etica. Questo non lo so io. Questa va benissimo. Vediamo quando discutiamo quell'altra se inseriamo questo principio, potremmo pure valutarlo, sentiamoci, cioè, nel momento in cui siamo in fase di dibattimento e di discussione si può ampliare anche alle cose che dice. Ma io adesso mi accontento di questo, per quanto riguarda la signora, l'altro avvocato che aveva questa preoccupazione, ma io che credo che questa preoccupazione io non ce l'ho perché siamo a vigilare. Ma lei sa che vuol dire questo movimento di donne sparso in tutto il paese? Noi siamo con le pistole puntate. Appena si rinnovano, cioè noi sappiamo già, quindi è come adesso quelle per esempio a Roma, che Alemanno, sindaco, non si è adeguato alla quota, sono andate, hanno fatto ricorso al TAR e quindi il povero Alemanno ha dovuto mettere due donne perché sennò decadeva la giunta. Quindi ormai si è creato questo circolo virtuoso anche di autocontrollo che non serve, cioè secondo me dobbiamo essere più fiduciosi in queste cose. Io lo sono, e se lo sono io, guardate, vuol dire che già ha qualcosa. Questo per me è proprio così, però anche in base alla legge, perché comunque è prevista questa regolamentazione secondaria della COSO che deve statuire in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni. Sì, però lei diceva, siccome già la COSO non c'ha la quota, come fa a controllare quell'altro che non ce l'ha? Saranno le donne a controllare, saremo noi. Tranquilla, dai fiducia anche a noi, sinceramente. Ma insomma, io non è che sono molto, insomma, adesso li metteremo alla prova, poi vediamo, non ci sbilanciamo troppo. La stessa regione Lombardia per statuto dovrebbe avere una quota. Ecco, poi per esempio, le formiconi, insomma, stanno stando perché si deve adeguare, se no ci giocano pure a lui la giunta. E tra l'altro la prossima settimana in Parlamento abbiamo un'altra proposta di legge per la doppia preferenza nei comuni e nelle province, e domani ho una conferenza stampa per un'altra legge che stiamo discutendo per quanto riguarda elezioni politiche, di fare la doppia preferenza. Quindi guardate, stiamo lavorando veramente, magari in passato. Prego. Venire da uomo, vada avanti sui congedi parentali obbligatori, questo tutto quello che può aiutare gli uomini a esserci nei compiti di cura, perché vi assicuro le donne certo si scontrano col problema della richiesta del part time, col problema ma se avrò un bambino e quello no, non ti assumo perché hai 25 anni, ti sei appena sposata e magari non rimani incinta, ma se un uomo si presenta con poi sta a casa 6 mesi perché nasce mio figlio oppure prova a chiedere il part time, vedo adesso avendo fatto però anche abbastanza un'esperienza sindacale da giornalista, cioè già la risposta media è anche alla donna sì, ma guarda proprio se ti è appena nato il figlio ma per poco perché un lavoro che non consente non si può fare col part time, che non si possa fare, non credo, credo proprio, ma se lo chiede un uomo cioè, sei fuori. Dopodiché mi rendo conto anch'io che c'è un problema culturale da parte dei maschi, cioè anche se facessi lo stesso discorso che ha fatto Katia con i suoi colleghi, avrei risposte, le ho avute in parte analoghe, quindi c'è una fatica, senza poi dimenticare che peraltro, ho apprezzato molto anche l'intervento di Giulia Pusterla sull'importanza dei compiti di cura, che in Italia quel 40% delle coppie è separate, quindi voglio dire siamo 8 milioni di persone e ancora nei tribunali ci sono moduli prestampati di fatto che per il 90% del tempo il bambino alla mamma vuol dire rimandare all'acquario fino alla prova contraria, voglio dire, o mettere in condizione di avere una babysitter, ma comunque voglio dire il bambino deve avere dei genitori, oppure rimandarla all'acquario di fatto. Quindi questa complessità proprio stiamo premiando anche questo, adesso ci vuole un anno, se non ci sono bambini con un anno ci si divorzia. Sì, ci sono anche una quantità di coppie di fatto in Italia di cui sarebbe bello prendere in considerazione l'esistenza, perché tutte queste cose sono belle interessanti, ma... Cioè, di cosa ne stiamo facendo, guardate, credete. Non sembra, magari non si conoscono, ma stiamo lavorando. E secondo me se si va avanti così, insomma, questo paese cambierà e deve cambiare, perché è giusto che cambi. Si sperano di arrivare poi appunto alla situazione equilibrata dove finalmente uomini e donne potranno affrontare questi temi insieme e probabilmente anche arrivare più rapidamente alle soluzioni ai rilanci della società, della famiglia, dell'economia, ma reali e più veloci. Bene. No, prima di chiudere, scusa, chiedo io la parola per cambiare un attimo l'argomento. Uscendo troverete l'ultima copia di Genio Donna, l'ultimo numero che abbiamo fatto, dentro troverete un po' quello che sarà il nostro destino. Noi siamo arrivati alla fine del nostro esperimento, abbiamo vinto un bando della Comunità Europea che ci ha finanziato per 3 anni per batterci e propagandare le pari opportunità. Cosa che abbiamo fatto pubblicando con precisione e tempestività 30 numeri in 3 anni e diffondendoli nella provincia di Como e nel Ticino. In totale abbiamo spedito in maggioranza a donne 150.000 copie per posta. Non so se questo lavoro che abbiamo fatto, noi pensiamo che abbia lasciato un segno. La riprova non l'abbiamo potuto avere perché la Comunità Europea ci ha impedito di poter vendere sul mercato il giornale e adesso però cercheremo di vedere, concluso il finanziamento europeo, di lanciare Genio Donna come giornale online. Il cartaceo è diventato molto costoso e è difficilissimo trovare un finanziamento che ci consenta di andare avanti come abbiamo fatto fino adesso. Però vorremmo tentare di trasformare in un giornale vivace online Genio Donna. Ha già un sito molto combattivo e abbastanza seguito. Noi chiediamo un aiuto a chi ci legge, a chi ci conosce, a chi non ci conosce. Chiediamo un aiuto di 30 euro, ve lo dico, che vada dal mese di maggio fino alla fine di dicembre, cioè che ci aiuti nel trapassare da giornale della Comunità Europea, finanziato dalla Comunità Europea, a giornale che vive sul mercato. I giornalisti, anzi le giornaliste di Genio Donna, troverete anche le loro immagini, hanno deciso di tentare di vivere sul mercato costituendosi in cooperativa. Non so se riusciremo. Se riusciremo ce lo dimostrerete voi, cioè se voi ci darete il vostro appoggio tenteremo questa avventura. Vi ringrazio Innanzitutto adesso ringrazio l'onorevole della Volpo che ha fatto tanti sacrifici per arrivare qui e ridò la parola a... Niente, allora vi saluto tutti, vi ringrazio e buona serata. Grazie ancora all'onorevole, grazie a Ornella Gandolfo. Buonasera, grazie a tutti.